Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Inizia una nuova settimana di Eclettica. Giulio Caperdoni, come tutti i giorni, come tutte le settimane, ancora non so per quante, fra le 19 e le 20. Ancora non sappiamo bene quale sarà il giorno preciso di chiusura di Rock FM, ma comunque tutto quello che ci sta succedendo ci ha permesso di capire ancora di più di quello che già sapevamo, di quanti siate dall'altra parte e di quanto bene ci vogliate. Infatti quello che io farò d'ora in poi è andare a leggere molto più spesso di quanto già facevo prima le vostre parole, e non me ne vogliono coloro che non leggo. Per forza di cose devo fare una selezione, perché siete stati in tantissimi a scrivere, in tantissimi a farvi sentire vicini a noi, e quindi forzatamente devo andare a fare una selezione. Comincio con Kate, da Pisa. È da tanto che si paventa l'addio, ma ogni volta ho sperato che fosse tutto falso, che se mi fossi laureata dopo sarebbe potuto accadere tutto. Ma anche dopo la laurea, anche all'estero, avrei continuato a cercarla, a sentirla, a vivere della mia Rock FM. Non ci riesco, non ce la faccio proprio a credere che stia per finire tutto per sempre. Io amo questa radio, le sensazioni che mi ha dato in questi anni, tutto quello che mi ha insegnato, le persone che mi ha fatto conoscere, tutte le volte che mi ha sorpreso. Io non ci riesco a dimenticarla, a far finta di nulla, non voglio. Perché Rock FM non è una semplice radio, è una famiglia. È quella che riesce a farti ridere la mattina, ti tiene compagnia mentre studi, ti regala i biglietti dei concerti, ti dà la buonanotte, ti dà la carica giusta quando ne hai bisogno e ti fa urlare in mezzo alla strada: io la amo questa radio. E chi lavora lì dentro non ce la faccia a pensare di non sentire più le loro voci o di doverli cercare per TV o altre radio. Perché niente sarà più lo stesso nella mia vita senza Rock FM e senza le loro voci. Vorrei tanto che fosse un incubo e farei di tutto per ridare un po' di serenità a tutti loro. Dannato denaro. Non posso perderla. È riuscita a farmi sentire a casa a Pisa, sin dal mio primo anno in cui la Calabria mi mancava da morire. Cosa posso fare per rimettere le cose a posto? Credo nei miracoli, ma so che non avverranno per me. Non stavolta. Sono giorni ormai che piove e fa freddo, e la burrasca ghiacciata costringe le notti ai tavoli del posto ristoro. Luce sciatta e livida, neon ammuffiti, odore di ferrovia, polvere gialla rossiccia che si deposita lenta sui vetri, sugli sgabelli e nell'aria di svacco pubblico che respiriamo annoiati. Maledetto inverno. Davvero maledette notti alla stazione, chiacchiere e giochi di carte e il bicchiere colmo davanti. Gli amici scoppiati pensano si scioglie così dicembre. Basta una bottiglia sempre piena, finché dura il fumo. Questo era l'incipit di Altri libertini, di Pier Vittorio Tondelli. We'll be right back. Da Glasgow erano questi Correcto, ascoltati con Johnny, prima ancora da New York, il nome nuovo di Son Lux con Break, e questo è il brano che ha aperto la trasmissione di quest'oggi. Trasmissione che vi ricordo è disponibile sempre e comunque in podcasting, questo da vedere anche al futuro, qualunque cosa succederà. Come minimo il podcasting rimarrà, ma sono confidente che ci sarà anche dell'altro. Giulio Caperdoni, che risponde all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com e che ricorda myspace.com/eclettica. Questo è il punto di riferimento per avere notizie anche nel momento in cui si dovessero interrompere tutti gli altri canali di comunicazione. Prima di passare al prossimo brano voglio leggere un brevissimo mail, quindi più breve rispetto a quello di Kate di prima, dei patentati rocker 1038 e 1039, Costi e Cid. Oh, ma non potete chiudere! Come faremo senza di voi? Chi ci leggerà i librini prima di andare a dormire? Chi dobbiamo corrompere? Possiamo fare un dolce e voi restate, vero? Vi lascio con ISO, band toscana di Montevarchi, per la precisione, che escono nel mese di marzo con Stolen Time, quello che è il loro esordio su lunga durata. Esce per Seahorse Goodfellas, dopo che nel luglio 2006 avevano registrato un primo EP intitolato All Words and No Feelings Make Jack a Dull Boy. Grazie a quell'EP sono entrati in contatto con Paolo Messere, ex Ulan Batore, leader dei Blessed Child Opera, che li ha inseriti all'interno del roster della sua Seahorse Recordings. Questo è il disco che parte dal post rock ma poi prende strade assolutamente personali, e questa è la canzone intitolata I Hate Candles. Loro sono i So. Ma Renzu, il mio grande amico Renzu, lo rivedo dunque per l'ultima volta in una parata primaverile di granatieri a Roma. A quasi un anno da quel nostro primo e gelido inizio di servizio militare su alla Ruppe di Orvieto, fine aprile dell'80 o giù di lì. Ma ancora un vento gelido e sferzante spazzava la piazza d'armi mentre i ragazzi marciavano e correvano. I ferrei granatieri, i prodi artiglieri e i piccoli e saettanti bersaglieri che incontravo ogni giorno all'infermeria con vescicacce aperte e contusioni ai piedi per via di quegli anfibi così rigidi e appunto così militareschi che dovevano calzare come scarpettine da danzatrici e batterci sopra i ritmi e la gran cassa come proprio allievi del Bolshoi. Questo era l'incipit di Pau Pau di Pier Vittorio Tondelli. It's a far, far better thing I do than I have ever done. It's a far, far better rest I go to than I have ever known. Il pop porno de Il Genio, questo è il nome del duo italiano che abbiamo appena ascoltato in Eclettica. Prima ancora invece era stata la volta dei norvegesi Ungdomsskolen con Modern Drummer. E si chiude questa prima parte, poi torneremo per stare assieme fino alle 20, si chiude con una band inglese, il cui nome è Stricken City, che ancora non ha inciso un album, ma solo una manciata di canzoni. Fra l'altro è anche alla ricerca di un tastierista, come recita la sua pagina di MySpace. Stricken City, che ci ascoltiamo con Better as a Girl.